GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Sul corpo del giovane pakistano trovato in via Ruggero Manna ci sono segni di trascinamento. Il giovane potrebbe essere caduto in un vicino cantiere edile e poi trascinato poco lontano, privo di sensi. All'indomani del corteo contro l'ipotesi di un hotspot a Jalmicco, le istituzioni continuano a chiedere invano chiarezza sul progetto e nel centrodestra c'è chi apre all'accoglienza diffusa. Oggi è all'esame del Consiglio dei Ministri la richiesta di stato di emergenza presentata dalla Regione per i danni provocati da ripetuti episodi di maltempo, l'ultimo ieri pomeriggio in Friuli. Un'autocisterna contenente acido muriatico cade in un fossato tra Sedegliano e Codroipo, perdendo il liquido che trasportava. Sul posto un nucleo speciale dei vigili del fuoco. In 3 anni la regione ha finanziato 200 imprese agricole di giovani. Alcuni, grazie a questi finanziamenti, si sono spostati dalla pianura alla montagna. Se ne parla oggi a Tolmezzo. Le zecche ormai sono un pericolo anche durante l'estate. Non solo in primavera e in autunno aumentano i casi di morbo di Lyme, per il quale non c'è vaccino. Fondamentale la prevenzione. Le 12.31, ancora buongiorno da Alessandra Zigaina e Lorenzo Gerlinzoni. In apertura la vicenda del giovane pakistano finito in rianimazione dopo essere caduto, pare, da una scala sulla sua schiena. Ci sono segni di trascinamento. Il servizio. Sarebbe stato trascinato via da un cantiere edile poco distante e abbandonato sanguinante in strada il giovane pakistano di 22 anni che lo scorso giovedì a Trieste ha riportato un grave trauma cranico a seguito di una caduta dall'alto, trauma che ha richiesto il ricovero in terapia intensiva. Ora il ragazzo è fuori pericolo, ma restano i dubbi su quanto accaduto quella sera all'angolo tra via Manna e via Sant'Anastasio. Un dubbio su tutti, che il giovane lavorasse in nero nell'edilizia e che al momento dell'infortunio sia stato allontanato dal cantiere per evitare di incorrere in sanzioni. I presenti sul cantiere vicino al luogo del ritrovamento hanno negato alla polizia che il giovane facesse parte delle maestranze, eppure il ragazzo aveva indosso abiti da lavoro e sulla sua schiena ci sarebbero lesioni compatibili con il trascinamento. Il caso è all'attenzione della procura, che sta valutando l'apertura di un fascicolo. Certo è che il ragazzo non compare nei registri della cassa edile. Questo non esclude che potesse avere qualche altro tipo di contratto, per esempio come metalmeccanico, ma secondo la filea CGL non è questo il caso. Secondo il segretario regionale Massimo Marega, il lavoro nero tra i tanti migranti in attesa di sapere qualcosa del loro futuro comincia a essere presente a Trieste e a Gorizia. Marega non esclude neanche fenomeni di caporalato. Il lavoro nero, inoltre, assume spesso altre forme subdole, sottolinea. Il sindacato ha ricevuto diverse segnalazioni di lavoratori sotto ricatto per il permesso di soggiorno. Percepiscono una regolare retribuzione, ma poi i datori di lavoro gli chiedono indietro i soldi guadagnati. Fenomeni esplosi con i bonus edilizi. Prima riguardavano per lo più lavoratori dell'Est Europa, ora sono coinvolti anche i pakistani e afghani arrivati dalla rotta balcanica. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Il prefetto di Udine, il commissario di governo e il commissario straordinario per l'emergenza e migrazione continuano a non dire nulla a proposito del ventilato progetto di un centro d'accoglienza a Jalmicco. Intanto anche il centrodestra comincia ad aprire all'ipotesi dell'accoglienza diffusa. Nessuna conferma, nessuna smentita dalla prefettura di Trieste, ma anche dal commissario straordinario per l'emergenza migranti Valerio Valenti. Ancora una volta silenzio stampa, e anche per il sindaco di Palmanova continua l'attesa per un vertice con il commissario di governo di Trieste per capire quanto concreta sia l'ipotesi di costruire a Jalmicco il nuovo hotspot per i migranti. Abbiamo mandato richiesta via PEC una settimana fa, ma ancora non siamo stati convocati, dice il primo cittadino Giuseppe Tellini, all'indomani della marcia di 300 cittadini davanti al luogo ipotizzato per l'hotspot, l'ex caserma Malago. Intanto all'interno del centrodestra anche Fratelli d'Italia chiede chiarimenti sull'ipotesi di Jalmicco e apre ad un ragionamento sulla questione dell'accoglienza diffusa, un po' come già fatto da Luca Zaia nel vicino Veneto. Walter Rizzetto, coordinatore Fratelli d'Italia. Può ricevere ancora molte informazioni rispetto all'allocazione di questo hub a Jalmicco. Sull'accoglienza diffusa io penso che l'hub possa essere una infrastruttura che ad un certo punto di passaggio va a riallocare queste persone però su un'accoglienza diffusa che deve essere fatta in modo intelligente. Rizzetto, in quanto presidente della Commissione Lavoro della Camera, non esclude che i migranti possano essere anche un'opportunità per rispondere alla carenza di manodopera delle aziende, ma aggiunge vanno fatti arrivare coloro che almeno in parte siano già formati. Un ragionamento sull'accoglienza diffusa si potrebbe tornare a fare anche secondo Dorino Favot, presidente dell'ANCI regionale, Associazione dei Comuni, che ricorda in modo positivo la sua esperienza da sindaco di Prata di Pordenone quando il comune ospitava alcuni richiedenti asilo per lo più minori. Ad ogni modo, dice Favot, per il momento non siamo stati convocati per parlare di questo argomento, ma neppure siamo stati convocati dalle prefetture per ragionare attorno alla questione di Jalmicco. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. In Friuli si contano di nuovo i danni dell'ennesimo episodio di maltempo, quello di ieri pomeriggio, mentre vigili del fuoco e volontari della protezione civile non sono riusciti ancora ad esaurire tutte le richieste di intervento delle scorse settimane. Oggi all'esame del Consiglio dei Ministri la richiesta dello stato di emergenza presentata dalla Regione. Si allunga sempre di più l'elenco dei comuni che hanno chiesto lo stato di emergenza, ultimo in ordine di tempo Reana del Royale, dove le strade si sono imbiancate come fosse neve, la pioggia ha trasformato tutto in fango a causa del forte temporale e della grandine di ieri, analoga situazione anche a Tricesimo. In tutto sono una settantina al momento gli interventi dei vigili del fuoco, in particolare per strade allagate e abitazioni finite sott'acqua, in alcuni casi è stato necessario il loro intervento per aiutare degli automobilisti in difficoltà nei sottopassaggi che si sono velocemente riempiti d'acqua. Anna Zossi, sindaco Reana del Royale. I grossi problemi li abbiamo avuto gran parte negli scantinati delle abitazioni, nella parte sud del territorio, mentre nella parte a nord del territorio abbiamo avuto tantissima grandine e quindi grandi danni anche al mondo dell'agricoltura. Tiziano Cautero, assessore alla protezione civile. Siamo intervenuti nelle case private, negli scantinati di alcuni condomini e abbiamo fatto anche delle interventi per la viabilità, per chiudere i sottopassi, per mettere transenne, per evitare che le persone potessero andare a restare bloccate con la macchina. La situazione era molto difficile, molto complicata, si faceva fatica a muoversi. Abitazioni allagate, auto distrutte, sottopassi ancora chiusa come quello di via 24 Maggio in zona Remugnano di Reana. Famiglie al lavoro per sgomberare gli scantinati e i piani stradali. È arrivata questa ondata d'acqua dai campi, dalla campagna, dal nord, dalla zona di Tricesimo ed ha ovviamente alluvionato tutto ciò che stava sotto il piano campagna. È stata una cosa abbastanza veloce e non sapevamo come sistemare tutto perché eravamo in difficoltà un po'. I vigili del fuoco sono arrivati praticamente quasi subito in tutte le case qua che erano un po' in difficoltà, soprattutto dai miei vicini perché avevano tanto ghiaccio e quindi c'era bisogno di liberare prima possibile e hanno lavorato tutta la notte. Ci siamo presi tutta la grandine che era caduta a Reana, quindi ha creato questo blocco che poi si è solidificato e ce la siamo presi tutti. Non lo so, mai successo, cioè dal 2014 che sto qui mai successo. Reana del Royale, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. La cronaca: incidente questa mattina all'alba tra Sedegliano e Codroipo lungo la strada regionale 463 presso il bivio Coseat. Un'autocisterna contenente un agente chimico, si parla di acido cloridrico, è uscito di strada cadendo in un fossato con conseguente perdita della sostanza nell'ambiente. Non ci sono altri veicoli coinvolti. Il conducente dell'autocisterna è riuscito a uscire autonomamente dall'abitacolo e a mettersi in sicurezza, soccorso dal personale medico infermieristico della SORES, ha però poi rifiutato di essere portato in ospedale. La viabilità sulla strada è interrotta, il nucleo NBCR dei Vigili del Fuoco di Trieste, che gestiscono eventi di tipo nucleare, biologico, chimico e radiologico, stanno operando in questi minuti sul posto insieme ai carabinieri e ai tecnici dell'ARPA regionale. Sull'asfalto e sull'area interessata dallo sversamento è stata versata sabbia per evitare che le sostanze chimiche inquinino le falde acquifere. Era una vera professionista del borseggio, la 37enne di origini rumene, arrestata dai carabinieri di Aurisina dopo un furto con destrezza davanti al banco di una gelateria. La scena, ripresa dalle telecamere, vede la donna sfilare il portafoglio dalla borsa di una turista straniera che sta studiando i gusti proposti. Al momento di pagare, la turista si accorge di non avere il portafoglio. Una volta rintracciata la donna, i carabinieri hanno scoperto che la stessa è ricercata per un mandato di cattura della Procura di Firenze, deve scontare 1 anno e 3 mesi per reati simili commessi a Firenze. Oggi la Lega del Friuli Venezia Giulia ha presentato in conferenza stampa gli emendamenti del gruppo consiliare all'assestamento di bilancio. Sentiamo. Rispondere alle esigenze concrete dei cittadini della nostra regione per ambiente, sicurezza, possibilità di lavoro, società e tutela degli animali. Queste le priorità degli emendamenti proposti dalla Lega e approvati dal Consiglio regionale lo scorso 28 luglio nell'assestamento di bilancio e illustrati dal capogruppo Antonio Calligaris. Tra gli emendamenti l'incremento di 500.000 euro per il fondo emergenza, che arriva così a 2 milioni e mezzo per sostenere il comparto produttivo agricolo per i danni causati dagli eventi atmosferici straordinari. Per la sicurezza il Carroccio ha fatto una proposta di 200.000 euro per un progetto pilota che consente ai comuni con più di 20.000 abitanti di impiegare sul trasporto pubblico locale addetti alla sicurezza. Per gli scuolabus invece la Lega ha ottenuto 200.000 euro per la dotazione di pedane per i disabili. Nel campo del lavoro sono stati proposti finanziamenti per i corsi di security manager, assistenti, bagnanti e guardiafuochi. Fondi previsti anche per lo sport, cioè per la preparazione degli atleti regionali alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina e per la presentazione della candidatura della regione a ospitare i campionati europei di biathlon della Forestale. Tra gli altri emendamenti, il sociale con i progetti per il contrasto alla solitudine, la gestione delle colonie feline, il supporto agli apicoltori e 100.000 euro per il teatro stabile friulano. Trieste, Vaciuk, TGR Friuli Venezia Giulia. Il meteo e il cielo è sereno sulla regione, queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 22 gradi, il mare quasi calmo con una temperatura di 24 gradi e mezzo. Gorizia, Udine e Pordenone 22 e mezzo, Tolmezzo 19, Forni di Sopra 17, Piancavallo 15, Sappada 14, Monte Zoncolan 11, Monte Lussari 9, Lignano e Grado 12 con una temperatura del mare di 24 gradi. Le previsioni a cura dell'ARPA Friuli Venezia Giulia: nel pomeriggio cielo variabile con maggiore nuvolosità sulle zone orientali e in montagna, dove sarà possibile qualche rovescio temporale, temperature sotto la norma del periodo. Domani sereno o poco nuvoloso per qualche velatura o qualche cumulo, pomeridiano in montagna ancora molto fresco di notte e al mattino venti di brezza. In 3 anni la Regione ha finanziato 200 imprese agricole di giovani. Alcuni, grazie a questi finanziamenti, si sono spostati dalla pianura alla montagna. Questo pomeriggio alle 14.30 se ne parla in municipio a Tolmezzo, dove saranno presentati questi strumenti finanziari. La legge regionale 24/2019 prevede dei contributi per i giovani residenti in territorio montano che vogliono fare investimenti sia nel settore agricolo che forestale. Questo sia appunto per potenziare il tessuto produttivo, ma anche per incentivare i giovani a rimanere sul territorio, rimanendo sul territorio al contempo anche garantire una tutela dell'ambiente montano e dei paesaggi, quindi una gestione attiva dei territori montani. A quanto ammonta l'aiuto economico che la Regione può dare a questi giovani? Ha un tetto massimo pari a 200.000 euro. Diciamo che da quando è entrata in vigore la norma sono state ricevute oltre 200 domande su questa linea contributiva. Quasi tutte sono state finanziate sia tramite contributi diretti in conto capitale sia tramite uno strumento regionale che è il Fondo di Rotazione Agricoltura, che concede dei prestiti a tasso agevolato. La norma prevede che il giovane o la giovane si impegnino anche a mantenere la residenza in territorio montano per almeno 5 anni. Quindi questo, insomma, ha anche determinato, noi abbiamo avuto evidenza, qualche caso di giovani che si sono spostati dalla zona nostra di pianura, diciamo, e sono andati appunto a risiedere in montagna aprendo una nuova attività agricola o forestale. La cosa anche interessante di questa norma, se posso dire, è che consente di presentare domanda sia a chi ha già un'impresa attiva sia a chi ha il progetto di aprire un'impresa attiva, per cui si può presentare domanda anche senza di fatto avere già un'impresa, ma obbligando, diciamo, il richiedente ad aprirla nei 2 mesi successivi alla presentazione della domanda. L'Università di Udine ha vinto 99 progetti di rilevante interesse nazionale, 29 dei quali come capofila, progetti che sono stati approvati e finanziati dal Ministero dell'Università e della Ricerca. Complessivamente l'Ateneo ha vinto circa il 51% dei progetti presentati, che erano stati 194. Diversamente dal passato, quest'anno i decreti con i finanziamenti ministeriali verranno emanati tra qualche mese. Questi progetti di durata triennale, selezionati da esperti nazionali e internazionali, sono la principale fonte di finanziamento ministeriale della ricerca universitaria. Passiamo allo sport, ai campionati mondiali di ciclismo su pista di Glasgow. In Scozia il bugliese Jonathan Milan ha vinto la medaglia di bronzo nell'inseguimento individuale. Jonathan Milan è ormai una presenza fissa sul podio delle prove mondiali di inseguimento individuale. La vittoria nella finale per il bronzo è stata nettissima, molto più del divario che lo divideva dal portoghese Alves Oliveira al termine delle qualificazioni. Il portacolori della Bahrain Victorious ha fatto come sempre una partenza sprint, 1.6.7 nel primo chilometro, anche meglio di Ganna e Bigam nella finale per loro, e ha mantenuto una cadenza superiore ai 60 km orari nella parte centrale di gara. I 2 chilometri successivi sono stati corsi a 59 secondi un decimo e 59 e mezzo. Con 2 secondi abbondanti di margine sull'avversario, il bronzo era praticamente assicurato. Nell'ultimo chilometro il bugliese è andato leggermente sopra il minuto, comunque meglio di Alves Oliveira, che ha risentito maggiormente del doppio impegno, qualificazione al mattino, finale la sera. 4 minuti, 5 secondi, 868 millesimi è un buon tempo, considerando la pista non velocissima, le fatiche accumulate in 5 turni tra quartetto e individuale. Una curiosità, il rapporto utilizzato dal corridore friulano è stato il 63-14, mentre nel quartetto ha montato un dente in più davanti, 64-14. Il bronzo conquistato a Glasgow ha un peso sicuramente maggiore rispetto alle altre medaglie mondiali ed europee, perché arriva dopo una stagione su strada abbastanza intensa che lo ha visto vincere la classifica a punti del Giro d'Italia. Per arrivare sul gradino più alto del podio nell'individuale occorre compiere un ulteriore salto di qualità, perché Ganna e Bigam, battuto per 5 centesimi al termine di un inseguimento che rimarrà negli annali del ciclismo, hanno una marcia in più. Ganna ha solo 4 anni più di Milan, per il passaggio di consegne dovrà attendere. Paolo Roncoletta, TGR Friuli Venezia Giulia. Nella 29esima edizione della staffetta delle vette sulle montagne di Ravascleto, 3 frazioni, salita, attraverso e discesa, il terzetto rosa dell'Aldo Moro Paluzza ha prevalso con largo margine. Su gella il predominio della squadra di Paluzza, il secondo posto della formazione B. Tra i maschi il successo è andato alla Gemona Atletica, la squadra gemonese si è imposta con 1:30 di vantaggio sulla squadra di Paluzza. La lotta per la vittoria tra le due formazioni è stata in bilico, soprattutto nella prima frazione. Risultato storico per il Circolo Marina Mercantile Nazario Sauro ASD ai campionati italiani ragazzi, junior e under 23 di canoa olimpica svolti nel weekend sul lago di Castel Gandolfo. Gli atleti canoisti allenati da Gabriele Cutazzo hanno conquistato ben 11 tricolori, titoli tricolori nelle distanze di 1500 e 200 metri e in tutte le categorie. Non ci sono più le mezze stagioni neanche per le zecche. Fino a qualche tempo fa proliferavano in primavera e in autunno, ora sono un'insidia presente anche d'estate. Possono trasmettere malattie anche gravi, ma mentre per l'encefalite c'è un vaccino, per il morbo di Lyme no. Per questo è fondamentale la prevenzione. Ne abbiamo parlato con un esperto. Nel periodo estivo è molto più probabile trovarsi a fare delle lunghe passeggiate in montagna, per non parlare delle attività scout che si intensificano, e la passione per tanti corregionali per il trekking non manca, ma c'è il rischio di rovinarsi le vacanze per colpa dei morsi delle zecche, che in questa regione sono endemici e procurano malattie anche gravi. Ne parliamo con il professor Maurizio Ruscio dell'Università di Trieste e presidente del gruppo italiano della malattia di Lyme e co-infezioni. Professore, che quali sono i consigli che lei ci può dare per un'estate in sicurezza? Evitare il morso della zecca è possibile vestendosi quanto più possibile con indumenti chiari che coprono la maggior parte del corpo, osservarsi periodicamente se ci sono questi parassiti e toglierli subito, perché questa attenzione è in grado di ridurre i rischi successivi al morso di zecca. Una delle malattie più temute è l'encefalite da zecca, la TBE, per la quale esiste un vaccino. Lei lo raccomanda per adulti e bambini? Anche se la malattia di Lyme è la più comune malattia trasmessa da questo parassita, ci sono le cosiddette coinfezioni. Sono numerose infezioni che questo parassita trasmette, tra cui la più insidiosa appunto è la TBE. Al momento è l'unica infezione che si giova della protezione di un vaccino che è consigliabile a tutti quelli che vivono o frequentano le zone dove la malattia è stata segnalata. Quanti sono i casi di morbo di Lyme in questa regione? La nostra è una regione endemica come tutto il nord-est e ormai la malattia di Lyme si sta estendendo in tutta Italia. Noi vediamo circa 146 casi per 100.000 abitanti, il che vuol dire 2.000 nuovi casi ogni anno. Quando dobbiamo preoccuparci dopo un morso di zecca? Ecco, dopo un morso di zecca bisogna osservare la zona del morso, osservando se ricompare dopo 7 giorni, mediamente 7-14 giorni, un arrossamento. In questo caso bisogna subito rivolgersi al medico perché questo è segno del primo manifestazione della malattia di Lyme. Al pari va osservato la comparsa di febbre perché questa appunto è segno della presenza delle coinfezioni trasmesse dal vettore. Udine, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il giornale radio finisce qui, grazie per averci seguito da Alessandra Zigaina e Lorenzo Gerlinzoni e grazie a Vassia Krismancic che ha curato la messa in onda di questo giornale radio e a Valentina Veneruso che ha collaborato in redazione. Ancora un buon pomeriggio a tutti. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.